Il Signore parlò a Mosè dicendo: consacrami ogni primogenito che apre il ventre tra i figli di Israele, uomo e animale sono miei. Mosè disse al popolo: ricordati di questo giorno nel quale siete usciti dall'Egitto, da una casa di schiavitù, perché con mano forte il Signore vi ha fatto uscire di là. Non si mangerà del lievitato. Oggi voi uscite nel mese di Abib. Quando il Signore ti avrà condotto nella terra del Cananeo, dell'Ittita, dell'Amorreo, dell'Eveo e del Gebuseo, che ha giurato ai tuoi padri di darti, terra dove scorre latte e miele, farai tale rito in questo mese. Per 7 giorni mangerai azimi, e nel 7° giorno ci sarà una festa per il Signore. Azimi si mangerà per 7 giorni, e non si vedrà presso di te del lievitato, né si vedrà presso di te del lievito in tutto il tuo territorio. In quel giorno ti esprimerai così con tuo figlio: è per quello che il Signore mi ha fatto quando uscii dall'Egitto. E sarà per te un segno sulla tua mano e un ricordo tra i tuoi occhi, perché la legge del Signore sia nella tua bocca, poiché con mano forte il Signore ti ha fatto uscire d'Egitto. Osserverai questa prescrizione nel tempo stabilito, di anno in anno. Quando il Signore ti avrà condotto nel paese del Cananeo, come l'ha giurato a te e ai tuoi padri, e te l'avrà dato, riserverai per il Signore ogni essere che apre il ventre e ogni primo parto dell'animale che avrai. I maschi sono del Signore. Ogni primo nato d'asino lo riscatterai con un animale del gregge, e se non lo potrai riscattare, gli spezzerai la nuca. Ogni primogenito d'uomo tra i tuoi figli lo riscatterai. E se tuo figlio domani ti domanderà: che cos'è questo? Gli dirai: con mano forte il Signore ci ha fatto uscire dall'Egitto, dalla casa di schiavitù. E poiché il Faraone si ostinava a non mandarci via, il Signore fece morire tutti i primogeniti in terra d'Egitto, dal primogenito dell'uomo al primogenito dell'animale. Per questo sacrifico al Signore ogni maschio che apre il ventre e riscatto ogni primogenito dei miei figli. E sarà come segno nella tua mano e come pendaglio tra i tuoi occhi, poiché con mano forte il Signore ci ha fatto uscire d'Egitto. Quando il Faraone mandò via il popolo, Dio non fu contento che prendessero la strada della terra dei Filistei, benché fosse la più breve, poiché Dio disse: perché il popolo non si penta quando vedrà la guerra e ritornino in Egitto. Dio fece girare il popolo per la strada del deserto verso il Mar Rosso. Ben equipaggiati, i figli di Israele salirono dalla terra d'Egitto. Mosè prese le ossa di Giuseppe con sé, perché quegli aveva fatto giurare i figli di Israele così: Dio vi visiterà, farete allora salire le mie ossa di qui con voi. Partirono da Succot e si accamparono a Etam, ai margini del deserto. Il Signore andava davanti a loro di giorno con una colonna di nube per condurli nella strada, e di notte con una colonna di fuoco per illuminarli, perché potessero andare di giorno e di notte. Né la colonna di nube di giorno, né la colonna di fuoco la notte si ritirava dalla vista del popolo.